questo momento è passeggero, inafferrabile, leggero, appena in tempo d'essere qua e in un istante se ne va, la corsa dura senza tregua, questo momento si dilegua. Questo momento quanto è breve, non può interrompersi e non deve, è un'impalpabile entità che come nato morirà prima di entrare nella storia. Questo momento è senza gloria. E non può durante il cammino che comportarsi sempre bene. Ha alle spalle il momento che seguirà e che non potrà essere da meno. Questo momento non si illude, appena nasce si conclude. Il tempo non ammette ma l'altro secondo scoccherà e quello che sta per spuntare, questo momento devo andare. Questo momento è da fermare con gesti e con parole care, farne un ricordo, chi lo sa, l'inizio di quel che sarà, un paradiso, una prigione. Questo momento è l'occasione. Questo momento non riposa, ha una sua corsa ben precisa. Occorre tanta volontà per afferrarlo, se ne andrà e sta sfuggendoci anche questo. Questo momento passa presto. Per quest'amore differente raccoglierò tanti momenti. Mettine in fila più che puoi per fare che non venga mai il suo tramonto. Questo momento ti appartiene, legato ad altri senza fine, e il tempo che spetta a te per vivere insieme a me un giorno d'un'ora appena. Questo momento è il mio problema, ma se tu dici che mi ami, questo momento senza età per noi vivrà.